Immenso, immenso amore, ancora poche ore, scalfite nella penombra, senza di te anche il sole è un'ombra. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza è racchiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza era chiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare. Senza di te sono assenza, senza nessuna abbondanza. La matematica non è un'opinione, ma con te uno più uno fanno sempre un milione. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza era chiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare. Tu sei la giostra, le eliche del mio ventilatore. Boom boom boom, scoppia il mio cuore, quando ti vede si accende il motore. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza è racchiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare. Torna presto che già respiro il profumo dei tuoi occhi, del tuo viso divino. Proverai ad aspettarti garofani del Tibet, rose bianche, una zuppa di nuvole del cielo. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza è racchiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare. Luminoso sia il cammino per chi sfiora il suo destino, e le lucciole fa ballare, e le lucciole fa danzare nella luce del suo amore. Se l'immenso esiste al colore dei tuoi occhi, la saggezza era chiusa in un fiore, e tu sei i miei petali, la vela del mio cuore, perché solo con te so volare.